l'anatroccolo non riusciva più a dimenticare quegli splendidi uccelli che gli erano sembrati l'immagine della felicità. Non sapeva come si chiamassero né dove si andassero, eppure li amava come non aveva mai amato nessuno. Non li invidiava, e come avrebbe potuto lui, così brutto, che si sarebbe accontentato di essere tollerato da semplici anatre, mischietto. Quell'inverno fu freddo, uno vrius de galera. L'anatroccolo doveva nuotare continuamente per evitare che l'acqua si ghiacciasse, ma ogni notte lo specchio d'acqua gli si restringeva intorno. Dal freddo il ghiaccio scricchiolava e lui agitava le zampe per impedire che quel cerchio gelido si chiudesse del tutto. Infine, esausto, si abbandonò e restò preso dal ghiaccio.